Salve a tutti, siamo qui a Radio Vostok per la seconda puntata del podcast che celebra il ventennale di Sodalis, ente del terzo settore nonché centro servizi del volontariato di Salerno. Con noi qui oggi c'è Michele Perrilli dell'associazione WISP A Simeon di Nocera Inferiore. Diamo il benvenuto a Michele Perrilli di Sodalis. Salve. Salve. Buongiorno. Salve, salve. Allora, il 2004 è stato l'anno di fondazione di Sodalis e la nostra domanda è: cosa ricorda in particolare di quell'anno? Allora, in quell'anno ricordo che c'era un grande movimento su quanto riguarda il terzo settore dal punto di vista, diciamo, anche normativo, e principalmente poi ci sentiva il bisogno, attraverso la possibilità di poter creare un ente ben preciso per andare a sviluppare tutto il mondo del terzo settore, e quindi ci fu chiesto a noi, come associazione presente già da un po' sul territorio, io ora presente, sono il presidente dell'Arcivisp Andrello Simeon di Nocera Inferiore, che è già presente nel nord della provincia di Salerno come associazione dal 1978, dalla seconda metà degli anni 70. Ci si chiedeva la possibilità di poter formare, appunto, insieme ad altre associazioni, un centro di servizi che favorisse la programmazione del volontariato, e ne accettammo con molto entusiasmo. Ha qualche aneddoto da raccontare rispetto a questi 20 anni di Sodalis? Allora, io un aneddoto preciso no, però posso adesso raccontarvi una sensazione bellissima che sto provando andando in giro per l'Italia, e che si è formato qua nel CSV di Salerno. CSV di Salerno, non ricordo bene che età, ha formato la Casa del Volontariato, e io lo sto trovando in tutte le città dove vado. Già la settimana scorsa sono stato a Mestre e ho trovato la Casa del Volontariato gestita appunto dal CSV. Quindi questo mi dà la sensazione dell'unità, dell'unità di intenti da parte del volontariato, di poter formare una casa comune in cui poter fare promozione sociale, solidarietà e essere uniti. Quindi, al di là di un aneddoto preciso, io do un grande valore a questa formazione della Casa del Volontariato, che le premetto che l'ho trovata anche andando in paesi stranieri, in verità di giorno, dove abito mio figlio mi ha portato, perché anche lui ha avuto esperienze di volontariato facendo il servizio civile, e mi ha portato una casa di volontariato presente a Digione in Francia. Quindi, voglio dire, in questo momento di grande bisogno di unità, il volontariato unisce tutti dal nord al sud. Certo, è assolutamente importante sia a livello statale che ovviamente internazionale. E mentre invece al contrario c'è stato qualche momento di difficoltà che ricorda particolarmente, e se sì, come è stato superato? Allora, momenti precisi di difficoltà non ricordo. Ovviamente i momenti più vivi sono stati agli inizi, però il CSV ha avuto tantissimo successo, tanto è vero che noi abbiamo iniziato nel 2004 con 20-30 associazioni, adesso ne raccoglie più di 200, quindi grande successo e grande bisogno appunto da parte della cittadinanza di avere un centro che abbia potuto dare, diciamo, seguire per aumentare sul territorio le associazioni di volontariato, di promozione sociale, associazioni che fanno parte del terzo settore, che servono appunto per essere vicini ai più deboli, dove c'è più disagio, e che quindi possono avere aiuto in questi momenti di grande, di grossa povertà che adesso stiamo vivendo in Italia. Perfetto, Michele, vuoi lasciare un augurio per il futuro di Sodalis? Io do l'augurio e ringrazio tutti i componenti del dello staff di Sodalis, del CSV di Trevi, che sono stati bravissimi e che hanno fatto in modo che appunto il volontariato nella provincia di Salerno sia aumentato e sia diciamo, una forza importante per cui la solidarietà, la voglia di stare insieme, l'evoluzione civile della nostra società vada sempre avanti e diventa sempre qualcosa di più importante. Certo, e proprio guardando al futuro, quali pensa che possano essere le prospettive per i centri servizi per il volontariato e ovviamente per quello di Salerno in particolare, che è più vicino a noi? Dicevo sempre di rafforzare già tutte le, diciamo i progetti messi in atto in questo momento e che come dicevo, attraverso il simbolo della Casa del Volontariato, dare un segnale di unità e di essere sempre presente per chi ha meno possibilità di potercela fare e di stare sempre più vicino ai deboli. Ok, grazie mille Michele per la sua disponibilità e per essere Io stato qui a Radio Vostok. Le auguriamo una buona giornata. ringrazio tantissimo a voi per questa trasmissione che possono divulgare sempre il progetto del volontariato e fare aumentare sempre di più questa pratica di tipo sociale e di civile che da parte di tutte le persone. Grazie mille. Grazie.